teoria delle stringhe è nata. È democratico perché. Per OGM si intende. L'effetto placebo. Da Vicondo. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 25 settembre 2010 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. E dopo una puntata speciale andata unicamente online dedicata all'iniziativa Scienze in TV, torniamo di nuovo in onda. Torniamo di nuovo in onda per parlare di un argomento di cui in teoria abbiamo parlato sia l'anno scorso sia 2 anni fa. Stiamo parlando di informatica quantistica. L'informatica quantistica ne avete già sentito parlare, abbiamo spiegato che cos'erano i qubit, questi pacchetti quantici che venivano scambiati come informazione del computer quantistico, abbiamo cercato nelle scorse puntate di spiegare che cosa sono i qubit, ma attenzione, quest'oggi parleremo di una rivoluzione nel campo dell'informatica quantistica, cioè ancora non sono usciti i computer quantistici e già c'è stata una rivoluzione. La rivoluzione è avvenuta attraverso un paper uscito su Science il 17 settembre 2010 e il primo autore di questo paper, intitolato Quantum Works of Correlated Photons, si chiama Alberto Peruzzo, lavora al Centro di Fotonica Quantistica presso l'Università di Bristol in Inghilterra e noi ce l'abbiamo in onda. Buongiorno Alberto. Buongiorno. Alberto, in questo paper, come già preannunciato, si parla di una rivoluzione in informatica quantistica. Ora, come sai, abbiamo 100 parole per introdurre la trasmissione. In 100 parole, tanto poi lo andremo ad analizzare meglio nel corso della puntata, in 100 parole, come spiegheresti questo paper se lo volessi sintetizzare? Noi nel nostro lavoro cerchiamo di sviluppare quello che si chiama quantum computing o quantum information usando fotonica, e in questo particolare lavoro facciamo vedere l'analogo quantistico della random walk, che è uno strumento molto utilizzato in statistica, in informatica, in molti campi della scienza, e nel nostro caso facciamo vedere la controparte quantistica usando singoli fotoni e li mettendoli in un chip ottico. E facciamo vedere le diversità, soprattutto di cosa succede quando mettiamo dentro 2 fotoni e li facciamo interagire, e quindi diciamo esploriamo tutte le varie peculiarità della meccanica quantistica in un sistema ottico. Cari ascoltatori, come avete capito, gli argomenti di quest'oggi non sono per nulla semplici. Cercheremo nel corso di questa puntata di spiegare come mai l'informatica quantistica del passato, pensate, già del passato, era un'informatica quantistica che trasferiva o che tentava di trasferire solamente pacchetti singoli. Cerco di spiegarmi meglio, è come se nell'informatica quantistica del passato si trasferisse solamente o il colore blu o il colore giallo, mentre con l'approccio del dottor Peruzzo si trasferisce una media fra i 2 colori, quindi si trasferisce fondamentalmente il verde. Non è esattamente vero quello che ho detto, ma insomma dà un'idea di che cos'è questo approccio di informatica quantistica delle Quantum Walks. A questo punto andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio. Nella prima parte della trasmissione cercheremo di parlare delle random walks e delle quantum walks, che è un pochino l'approccio che ci aiuta a capire il discorso, mentre nella seconda parte della trasmissione andremo ad ascoltare espressamente il contenuto del paper uscito qualche giorno fa su Science. Considerate che su Science di articoli teorici ne escono veramente pochissimi. A dopo. Music. Come and swim in your perfume as you. Time. E bentornati in studio, cari ascoltatori, siete sempre all'ascolto di Cacciafotone. E in questa puntata particolare, perché è una puntata in cui stiamo parlando fondamentalmente di fisica teorica, di meccanica quantistica, ma anche possiamo dire di informatica, siamo al telefono col dottor Alberto Peruzzo dell'Università di Bristol, col quale stiamo parlando di un nuovo approccio con cui intendere l'informatica quantistica. Ecco, ci siamo ripromessi che nella prima parte della trasmissione avremmo spiegato un pochino i fondamenti, giusto per andare a capire di che cosa parla effettivamente questo paper, perché è molto teorico. Allora, diciamo che nel passato, ma anche nel presente, visto che ancora il paradigma effettivamente non è stato cambiato, per lavorare sull'informatica quantistica si utilizzavano le cosiddette random walk. Ora, queste passeggiate randomatiche, queste passeggiate diciamo casuali, possiamo dire che effettivamente erano l'unico modo, l'unico approccio per intendere un'informatica quantistica che avesse un senso? Esattamente, in principio queste, le random walk sono in grado di realizzare quello che viene chiamato computer quantistico universale, ovvero siamo in grado, usando le random walk, di creare qualsiasi tipo di calcolo quantistico, ed è stato dimostrato nella teoria negli ultimi 10 anni, diciamo. Ecco, a questo punto riusciresti a spiegarmi con parole semplici, per quanto semplici possano essere le parole, che cos'è una random walk? Bene, vi faccio un esempio di un esperimento che possiamo fare per descrivere che cos'è una random walk, scusate. L'esempio più semplice è prendere una pallina e farla cadere attraverso un sistema di ostacoli. Ogni volta che la pallina trova un ostacolo, sceglierà di andare a destra o a sinistra. Alla fine di questo percorso ci sarà una certa probabilità che la pallina si trovi in vari posti lungo l'uscita. E questa è chiamata classical walk. E qui ci sta dicendo che quando andiamo a studiare un sistema fisico, se vogliamo calcolare il cammino di una particella, noi calcoliamo in realtà la probabilità che la particella si trovi in una particolare posizione in luogo di un'altra. Questo è il concetto. Esattamente. Il passo successivo è passare all'analogo quantistico. Per passare all'analogo quantistico dobbiamo iniziare a pensare a prendere delle particelle che interferiscono. Quindi dobbiamo prendere delle particelle che possono andare sia a sinistra che a destra. In qualche modo possiamo prendere un'onda che si splitta in due parti, in due segmenti, e prende due diversi percorsi. Ogni volta che c'è un possibile split, questa continuerà a scegliere i due percorsi, e a qualche punto questi due percorsi si rincontreranno e quindi l'onda interferirà con se stessa. E le particelle quantistiche hanno la doppia possibilità di comportarsi come particelle e come onde. In questo caso ci stiamo occupando della parte ondulatoria delle nostre particelle. Ecco, fammi un attimo un esempio. Io lancio una particella e poi la particella dove si può trovare? La particella può trovarsi in diversi possibili posti, mentre una pallina classica si troverà in uno ed un solo posto in ogni istante. In meccanica quantistica è chiamato concetto di sovrapposizione. Quindi una particella quantistica in questo caso assume le caratteristiche di un'onda. Quello che ha in più questa particella è che può essere anche rivelata come una pallina all'uscita. Quindi a questo punto, quando noi mettiamo quello che viene chiamato detector, cioè un rivelatore di particelle tipo di fotoni, il nostro rivelatore, ogni volta che arriva un fotone, ci dà un click all'uscita, e questo rivela l'altro comportamento, che è lo comportamento particellare delle nostre particelle quantistiche. Alberto, quando parliamo di particelle quantistiche, effettivamente di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di soli fotoni o stiamo parlando anche di altre particelle? Particelle quantistiche ce ne sono diverse, atomi, ioni, eccetera. E quantum walks sono state dimostrate con singole particelle quantistiche usando fotoni, usando ioni, usando atomi ed altri diversi sistemi. Quindi ce ne sono parecchi. Ecco, intanto stiamo capendo che le Quantum Walks non è un sistema inventato da voi, ma è un sistema che già preesisteva, un sistema che avete deciso di applicare su questo nuovo tipo di computer quantistico, o meglio su questo nuovo tipo di approccio ai computer quantistici. Poi andremo a parlarne nella seconda parte della trasmissione, ma a questo punto siamo arrivati al nodo della questione: che cos'è una quantum walk e soprattutto come si può definire una sovrapposizione di stati, visto che a questo punto stiamo cercando di definire la differenza fra quella che era un random walk del passato e una quantum walk del presente. Beh, quello che facciamo noi sperimentalmente è misurare molti eventi in cui un fotone si propaga attraverso il nostro chip, e all'uscita prendiamo tante e tante misure su cui poi facciamo una media e ricostruiamo quello che mediamente durante il nostro esperimento è avvenuto. E dobbiamo sempre pensare che le particelle hanno questa probabilità di trovarsi in diversi posti, e all'uscita possiamo solo misurare un'unica posizione secondo una certa probabilità. Quindi in una certa misura avremo con una certa probabilità un click in un detector posto in una certa posizione, poi un altro click in un altro detector, e dopo molte e molte misure possiamo ricostruire la nostra statistica all'uscita, che è molto diversa da quella che otterremo misurando palline classiche, diciamo. Ecco Alberto, poi lo andremo ad analizzare meglio nel corso della trasmissione, ma soprattutto nella seconda parte, dove andremo a indagare all'interno dei contenuti della tua ricerca. Ma qual è stato il vantaggio scientifico di utilizzare l'approccio delle quantum walk in luogo delle random walk? Beh, la prima cosa significativa è che prendendo vantaggio da questo principio della sovrapposizione e da un altro principio di cui non abbiamo ancora parlato, che si chiama entanglement, e che è un principio secondo cui due oggetti quantistici possono essere collegati in modo direi inestricabile uno con l'altro. Questo si chiama principio entanglement. Usando questi due principi siamo in grado di realizzare dei calcoli o delle simulazioni che sono molto molto più potenti degli analoghi classici, perché in pratica c'è un parallelismo intrinseco nel nostro sistema proprio per il fatto che la particella, come ho detto prima, può trovarsi in tutte le possibili posizioni che gli è consentito trovarsi. Il parallelismo della posizione fa sì che ad esempio camminare in un grafo per una particella quantistica vuol dire trovarsi in tutte le possibili posizioni del grafo in un certo istante. Ecco, a questo punto ci fermiamo per un attimo, rimettiamo un pochino le idee a posto. Abbiamo parlato di random walk, abbiamo parlato di quantum walk, abbiamo cercato di spiegare il concetto di entanglement, abbiamo cercato di spiegare il concetto di sovrapposizione, ma non è stata una fatica vana, perché questi concetti ci serviranno nella seconda parte della trasmissione. Nella seconda parte della trasmissione, come già preannunciato, parleremo appunto del tuo paper, il paper uscito il 17 settembre del 2010 su Science, intitolato Quantum Walks of Correlated Photons. In questo paper cercheremo di capire come mai viene regalato un nuovo approccio alla informatica quantistica. I'll see the Empress of Night. E bentornati a tutti cari radioascoltatori, siamo di nuovo in collegamento qui a Cacciafotone, in questa puntata in cui stiamo parlando di informatica quantistica. Stiamo parlando in realtà di informatica quantistica, non è un argomento nuovo per Cacciafotone, ma ne stiamo parlando con un nuovo approccio che viene direttamente da un paper uscito su Science il 17 settembre 2010, a firma, o almeno come primo autore, di Alberto Peruzzo, ricercatore presso l'Università di Bristol. Ora, per spiegare questo esperimento, nella prima parte della trasmissione abbiamo cercato di dare, come dire, le coordinate. Abbiamo parlato di random walk, abbiamo parlato di quantum walk, abbiamo cercato di parlare di concetti come l'entanglement, ma a questo punto, come promesso nella prima parte della trasmissione, entreremo più nel dettaglio. Ora, entrando nel dettaglio, faccio un passo avanti per tornare indietro. Questo esperimento è stato fatto attraverso un piccolo chip realizzato dal gruppo di Bristol. Ora, questo chip come è composto e in che modo passa l'informazione attraverso questo chip? Bene, il nostro chip è un chip ottico integrato che si basa sul concetto di guida d'onda. Possiamo pensare alle guide d'onda come una fibra ottica che ha la proprietà di guidare la luce in qualche modo, quindi possiamo curvare la luce e farla andare dove vogliamo a nostra preferenza. La stessa cosa possiamo farla in una struttura monolitica come un chip. Quello che abbiamo fatto nella prima parte del nostro esperimento è stato disegnare un particolare chip in cui abbiamo disegnato 20 guide secondo un pattern periodico, in cui la nostra luce si può propagare e può in qualche modo un fotone può saltare da una guida a quella a fianco, diciamo, e in modo da realizzare quella che si chiama la quantum walk. Bene, quando parli di guide, esattamente a cosa ti riferisci? In questo caso le guide sono, come ho detto prima, sono l'analogo di fibre ottiche, una vicino all'altra, però non sono fibre ottiche a sé stanti, ma sono solamente la parte in cui la luce viene confinata. Tecnicamente c'è quello che si chiama indice di rifrazione, in cui c'è una differenza tra due indici di rifrazione in delle guide simili al vetro, in cui esiste un gap e la luce viene confinata e la possiamo guidare. Ora Alberto, a questo punto dobbiamo arrivare al dunque. Ecco, utilizzando questo chip, e meglio creando questo chip, utilizzando la quantum walk di cui abbiamo parlato, effettivamente quanti fotoni sono stati utilizzati, quindi quanti stati di questi fotoni sono stati sovrapposti? Questa è una ottima domanda e ti ringrazio per la domanda. La parte interessante del nostro esperimento è che, a differenza di prima, abbiamo per la prima volta mostrato che cosa succede quando inseriamo due fotoni, quindi due particelle quantistiche, e le particelle quantistiche possono interagire secondo la meccanica quantistica. Mentre gli esperimenti che sono stati fatti precedentemente sono sempre stati fatti con una singola particella, e la cosa interessante per noi è che una singola particella, il suo comportamento può essere simulato in qualche modo fedelmente e può essere spiegato usando teoria classica della luce, mentre quando si iniziano a inserire più di una particella, le correlazioni tra due particelle o più può essere solo spiegato usando la meccanica quantistica, e questa è la novità, diciamo, del nostro lavoro. Ecco, giusto per entrare nell'argomento grossario, quando parliamo di stati, di che cosa stiamo parlando? Allora, noi definiamo la sovrapposizione degli stati come la proprietà di una particella di trovarsi in più posizioni allo stesso istante. Quindi, se noi nel nostro chip abbiamo una serie di guide una a fianco all'altra, la luce dopo un po' di tempo si potrà trovare in ognuna di queste guide d'onda, e quindi si troverà in una sovrapposizione di tutte le possibili posizioni in cui si può trovare. E quindi a questo punto dal glossario andiamo direttamente al dettaglio, andiamo direttamente al contenuto interno del vostro paper. Io ce l'ho qua davanti e adesso chiedo agli ascoltatori di Cacciafotone, se hanno un computer davanti, di andare a cliccare direttamente l'immagine in alto a sinistra del post che abbiamo messo sul nostro blog, in cui ci sono i riferimenti di cui stiamo parlando. Ecco, nell'immagine che voi vedete nel sito di Cacciafotone e che voi potete vedere all'interno del paper scritto dal dottor Peruzzo su Science, è un'immagine divisa in tre blocchi A, B e C. Riuscireste a spiegare esattamente che cosa raffigura A, che cosa raffigura B e che cosa raffigura C? Perché effettivamente la spiegazione di quello che avete fatto sta tutta qui. L'immagine A descrive, è una fotografia presa al microscopio del nostro chip, che è circa lungo 5 mm, quindi è piuttosto piccolo, e la parte tratteggiata fa vedere questo array di guide, quello che stavo descrivendo, ed è dove effettivamente avviene quella che chiamiamo quantum walk, ed è evidenziata da una simulazione sulla destra dell'immagine, l'immagine B, dove in pratica si vede che si vede in qualche modo col colore dove c'è la più alta probabilità per la particella di trovarsi. L'immagine C fa vedere il pattern di luce laser all'uscita del nostro sistema, e questa luce laser in qualche modo simula il comportamento di un singolo fotone, quindi ha la stessa statistica in uscita di quello che farebbe un singolo fotone. Ora, il vantaggio di utilizzare due fotoni invece che utilizzarne uno solo è soltanto per avere una quantità maggiore di informazione in un lasso minore di tempo, oppure c'è dell'altro? La cosa interessante è che il rapporto tra il numero di particelle che mettiamo e quello che si chiama la grandezza del grafo corrispondente, devo precisare che le quantum walk i matematici ci dicono che si propagano in un ambiente che si chiama grafi, e il nostro grafo, diciamo, in questo caso è dato dalle 20 guide che abbiamo disegnato nel nostro chip. Per un singolo fotone il grafo corrispondente è 20, se ne mettiamo due il grafo cresce esponenzialmente e diventa come 20 al quadrato in qualche modo, quindi è come le due particelle si muovessero in un ambiente molto molto più complicato. Il nostro particolare sistema, quindi il fatto di usare particelle quantistiche, ci permette di studiare in modo esponenzialmente più veloce e la propagazione all'interno di questo grafo. Alberto, cosa pensi che sarà il futuro di questo lavoro nell'informatica quantistica? Perché per adesso avete sviluppato un metodo, l'avete realizzato attraverso questo chip, ma da quello che stiamo capendo è un metodo che in futuro, col fatto della sovrapposizione degli stati, che può dare esponenzialmente un passaggio maggiore di informazioni computazionale, è un sistema destinato a esplodere. Che per il momento questo chip in termini di grandezza è circa 5 mm di lunghezza in totale, e la regione in realtà dove effettivamente avviene la quantum walk è lunga circa 700 micrometri, quindi è molto molto piccola. Possiamo effettivamente andare ad un ordine di grandezza superiore in termini di compattezza, cioè fare un chip estremamente più piccolo. Il fatto che non l'abbiamo ancora fatto è semplicemente perché volevamo partire con un esperimento relativamente semplice, ma uno dei prossimi passi è scalare ancora questo sistema ed usare questo approccio per fare ad esempio delle simulazioni di sistemi biologici, per esempio, come hai detto tu. Ci sono molti studi che vorremmo fare sulla fotosintesi, su come viene propagata l'energia all'interno delle molecole che sono impiegate nella fotosintesi per trasferire l'energia data dalla luce del sole in punti particolari dove avvengono le reazioni chimiche della fotosintesi. E questa è una cosa che si può simulare con le quantum walk. Quindi quello che ci sta dicendo è che adesso siamo a un primo passo per realizzare un nuovo modello di computer quantistici che ci potrebbero essere utili per modellizzare la natura che ci sta intorno. Esatto, probabilmente la cosa estremamente interessante di questi risultati è che apre le porte a un nuovo approccio per il calcolo quantistico. E i computer quantistici sono inizialmente stati pensati come dei simulatori di sistemi quantistici, che sono notoriamente molto complessi da simulare, perché i computer classici non sono efficienti per simulare sistemi quantistici, mentre avendo a disposizione un sistema esso stesso quantistico ci dà un vantaggio in qualche modo. Alberto, a questo punto abbiamo messo molta carne a fuoco, ci fermiamo qui perché magari poi recupereremo l'argomento delle quantum walk e dei computer quantistici magari in una prossima puntata di Caccia a Fotone, in cui speriamo ci saranno degli sviluppi per questo nuovo modello di computer quantistico. Saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Caccia a Fotone e di Radio Città Fujiko. L'appuntamento è, come al solito, sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, con l'augurio di una buona scienza a tutti.